Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Già qualche tempo fa, quando iniziava a delinearsi la manovra Salva Italia, avevamo capito che questo nuovo governo Monti avrebbe dato molti spunti per le puntate di Salva Danaio. Allora, dopo avervi illustrato con molte puntate quella manovra, ricominciamo ora a concentrarci sulle riforme in arrivo nel nostro paese. Da questa settimana però il fronte non è più quello di tasse e pensioni o nuove tariffe, aumenti e rincari, ma ci dedichiamo alle liberalizzazioni. I nuovi elementi che il governo sta introducendo per liberalizzare alcuni settori del mercato e che hanno provocato anche non poche turbolenze nei giorni scorsi vanno infatti naturalmente a toccare nel vivo anche la quotidianità dei cittadini ed è quindi opportuno informarsi e aggiornarsi per capire quello che sta accadendo. Questa settimana quindi daremo ampio spazio alle novità in arrivo sul fronte, lo ribadisco, liberalizzazioni, mentre a partire dalla prossima settimana inizieremo ad aprire un'altra importante parentesi, quella delle semplificazioni, degli snellimenti del nostro sistema burocratico. Si annunciano insomma puntate molto intense. Oggi apriamo la serie con un tema che vi coinvolge sempre molto, uno dei temi più gettonati quando lo proponiamo in termini di vostre telefonate, richieste di chiarimento, quello delle polizze RC Auto. Un settore che in Italia sembra letteralmente impantanato in una situazione senza uscita, caratterizzarne infatti i prezzi, le tariffe in costante crescita, quasi cronica a questo punto potremmo dire, ma anche il fenomeno delle frodi assicurative che sta provocando appunto la scelta, sta determinando la scelta per tutte le compagnie proprio di aumentare le tariffe, proprio per affrontare questa deriva evidentemente negativa. Oggi andiamo a scoprire a cosa ha pensato il governo per disinnescare questo circolo vizioso, chissà se ce la farà, lo chiederemo ai nostri interlocutori di questa mattina. Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione. Presidente Paparella, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E poi il nostro caro amico, collega delle Sole 24 Ore, l'uomo dell'auto, Maurizio Caprino. Buongiorno Maurizio, benvenuto, bentornato anche a te. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, chiaramente io mi aspetto molte telefonate da parte vostra. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta. Se volete invece scriverci, avete molte direzioni con cui farlo, molte modalità. Potete scriverci gli sms al 349 238 6666, potete scriverci una mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, potete scriverci anche sul nostro profilo Facebook, il profilo della trasmissione che evidentemente è salvadanaio-radio24. Prima di partire su questo tema, che è sicuramente molto interessante perché praticamente quasi ognuno di noi ha un'auto in casa e quindi si è imbattuto nella polizza RC Auto, nella sua stipula, nel suo rinnovo e nelle sorprese anche degli ultimi mesi con i rincari che hanno continuato ad imperversare, chissà se le nuove misure appunto studiate dal governo potranno contribuire in qualche maniera, non dico a ridurre drasticamente questa tendenza, ma quantomeno calmierarla un po', lo vedremo. La borsa, prima di partire, la borsa oggi è negativa, adesso c'è un po' di peggioramento. Il quadro si era aperto così, con cali di circa un punto su tutte le piazze, poi a metà mattinata il quadro era migliorato, adesso invece vedo di nuovo tutte giù, le piazze del vecchio continente, Parigi segna un calo di un punto, Francoforte -0,7%, Londra -0,8%, Milano -0,96% sul FTSE MIB. Le vendite ritornano su tutti i titoli bancari, Monte dei Paschi -4,33%, abbiamo la Popolare di Milano -3,72%, il Banco Popolare -3%, Buzzi Unicem -2,88%, STM -2,87%, Finmeccanica -2,66%, un bel gruppo di titoli che perde oltre 2 punti percentuali, sono UbiBanca, Mediobanca, la Popolare dell'Emilia Romagna, Mediaset e Generali. Segno più sull'automatica, più 1,83%, Fiat in rialzo di un punto. Fra i titoli i minori, nell'altro listino, troviamo il crollo verticale di Premafin Finanziaria, -31,85%, sospesa dalle contrattazioni dalle 12.08, e Fondiaria 6 a Risparmio, -15,43%, ma anche Milano Assicurazioni e Fondiaria 6 Ordinarie perdono 10 punti percentuali. Che cosa è successo qua? Che come sapete c'è l'operazione di aggregazione con Unipol che è al vaglio di tutte le autorità competenti, ma per andare a questa operazione probabilmente Fondiare SE dovrà fare un aumento di capitale più alto rispetto a quello iniziale. Adesso si parla di un ammontare di oltre 1 miliardo di euro. L'operazione va al vaglio dell'assemblea degli azionisti a metà marzo, ma in ogni caso tutto questo sta ridestando molta tensione fra i titoli interessati. Che cosa andiamo a guardare adesso? Lo spread fra BTP e Bund, neanche a dirlo, ritorna a crescere. La settimana parte male, 430 punti base, chissà se è colpa dell'abbassamento di rating che venerdì scorso è arrivato da parte di Fitch. Per la verità lo attendevamo perché ce l'aveva già preannunciato a metà dicembre, e però insomma è arrivato, lo spread riprende a salire nonostante anche le aste di stamattina del Tesoro siano andate bene. Il Ministero dell'Economia ha collocato 3 miliardi e mezzo di titoli con scadenza a 5 anni, il tasso è sceso al 5,39%, l'ultima asta aveva visto tassi al 6,47%, forse ci si aspettava una spinta un po' più forte verso il basso. I titoli decennali sono stati collocati lo stesso con successo, un'operazione da 2 miliardi, il tasso è sceso al 6,08%, dal 6,98% siamo all'incirca sul tasso di rendimento che questa mattina c'è sul mercato secondario per il BTP. Direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di un'altra borsa, parliamo del nostro portafoglio e della quota del nostro portafoglio che destiniamo all'RC Auto. Chissà quante auto abbiamo nelle nostre abitazioni, cosa sta cambiando, cosa cambierà secondo le liberalizzazioni del Presidente del Consiglio Tremonti. Sentiamo. I prezzi dell'RC Auto sono un'anomalia tutta italiana, chiaro sintomo del malfunzionamento di un intero sistema. Il rincaro della polizza è inarrestabile ed è sembrato inutile in tutti questi anni il rincorrersi degli appelli di tutti gli attori in gioco, l'autorità di vigilanza ISVAP, i consumatori, l'associazione degli agenti e quella delle compagnie, ognuna con un'analisi diversa e col dito puntato su altrettante cause: la scarsa concorrenza, l'abbandono del Sud Italia da parte delle compagnie, le troppe frodi assicurative. Un circolo vizioso su cui cerca adesso di intervenire il governo Monti, che ha riservato al settore dell'RC Auto alcune delle novità contenute nel pacchetto liberalizzazioni. I cambiamenti previsti sono principalmente 4. Primo punto, per stimolare la concorrenza, il preventivo obbligatorio. Le agenzie che vendono le polizze dovranno obbligatoriamente fornire ai clienti, in modo chiaro e trasparente, almeno 3 preventivi diversi di altrettante compagnie assicurative. In questo modo dovrebbe essere più semplice per l'automobilista individuare la tariffa migliore. Numero 2. Nuove regole antifrode, per sollevare le compagnie dai costi degli incidenti stradali. Tra le misure previste, l'eliminazione dei contrassegni di carta, i cartellini posti sul parabrezza che attestano l'assicurazione del veicolo, ma che possono essere facilmente contraffatti, come dimostrano, secondo alcune stime, le abitudini disoneste di circa 3 milioni di italiani. La terza voce è la lotta ai risarcimenti gonfiati, un'anomalia tutta italiana che contribuisce ai continui rincari. Con l'obiettivo di fermare i furbi, le compagnie avranno la facoltà di ridurre fino al 30% i risarcimenti erogati ai clienti che hanno subito un sinistro e che rifiutano di far riparare la propria auto in una carrozzeria convenzionata con la stessa impresa assicurativa. Infine, il decreto prevede alcuni incentivi per chi installerà sulla propria auto una scatola nera. Come per gli aerei, l'apparecchio consentirà di controllare il comportamento dell'automobilista e di ricostruire le dinamiche dell'eventuale incidente. Allora, tanto per cominciare, non solo gli ho assegnato l'importante incarico di governo, l'ex ministro dell'economia Tremonti, cioè non solo l'ho rievocato di nuovo, ma gli ho dato anche l'incarico di governo. Detto questo, scusatemi, invece di dire Monti ho detto Tremonti, ma che vi devo dire, lunedì anche per me sono partita in salita. Maurizio Caprino, che dobbiamo fare qua? Dammi così il modo di svegliarmi definitivamente con queste notizie di quest'oggi, ma a parte gli scherzi, insomma, complessivamente come valuti questo pacchetto delle misure di liberalizzazione del mercato RC Auto, appunto, a quali ritieni che potranno essere gli interventi più incisivi sul fronte dell'obiettivo primario che l'intervento si propone, che è quello di dare una calmata a queste tariffe delle quali non facciamo che parlare da almeno 2 anni a questa parte per il loro volo, letteralmente il volo che hanno preso verso l'alto. Maurizio. Ma francamente c'è ancora molto da capire, per esempio sentivo adesso della scatola nera, ma oggettivamente non viene specificato quanto, quale beneficio viene garantito a chi la monta, nel senso che è vero, le spese sono a carico della compagnia, come già succedeva in tante sperimentazioni fatte finora, però non c'è una percentuale minima di sconto che viene garantita, per cui ovviamente un conto è dire ti faccio il 2%, un altro conto è dire ti faccio il 20%, insomma, no? Quindi bisognerà vedere come si orienterà il mercato, e il governo ha preferito che si orientasse il mercato. Poi c'è oggettivamente quella che secondo me può essere addirittura una mina vagante in questo decreto, nel senso che si parla di decurtare del 30% il risarcimento a chi non adotta la cosiddetta forma specifica, cioè a chi non accetta di far riparare il proprio veicolo danneggiato a una compagnia convenzionata dalla propria, a una carrozzeria, chiedo scusa, convenzionata con la propria compagnia. Ora, andando a vedere com'è formulato, oggettivamente io vedo il rischio che le persone con questo sistema vengano spinte, o ci vadano spontaneamente, vengano spinte da patrocinatori interessati a non usufruire del cosiddetto risarcimento diretto, che tutti quanti avevamo applaudito nel 2007, ne avevamo invocato ancora prima l'adozione, nel 2007 è entrato in vigore, poi nel 2009 la Corte Costituzionale ha detto che non era obbligatorio, e in questa non obbligatorietà continuiamo ancora adesso a muoverci, per cui adesso se il risarcimento diretto lo graviamo anche del rischio di perderci il 30% dell'indennizzo che ci spetta, beh, ovviamente molta gente sarà spinta ad andare sulla procedura tradizionale, che già aveva mostrato tanti limiti negli anni precedenti, per cui oggettivamente il giudizio non è positivo, o comunque deve rimanere necessariamente sospeso, perché poi immagino che ci possano essere degli emendamenti nel corso della conversione. Quindi c'è necessità di chiarire alcuni aspetti. Presidente Paparella, chiedo anche a lei qual è il suo punto di osservazione, quali sono i punti che ritiene più validi delle novità che arrivano, cosa ne pensa anche di questo obbligo introdotto di avere, e parlo dell'utente, del contraente, della polizza, almeno 3 preventivi appunto da parte della compagnia alla quale ci si rivolge? Ma direi che preliminarmente vorrei affermare che tutto quello che serve a liberalizzare il mercato, quindi a fare concorrenza, per noi è un elemento positivo. Anch'io ho delle perplessità sull'attuabilità e su come verrà attuato questi provvedimenti, ma certamente si fa un passo avanti verso almeno l'affermazione di un principio. Detto questo, noi da sempre, come associazione di categoria, come broker, abbiamo un preventivatore auto che si chiama Check It Auto, che compara ben 70 compagnie tra le prime del mercato. Quindi l'operazione di comparazione fra preventivi noi la esercitiamo abitualmente. L'associazione dei broker ci mancherebbe. Ecco, considerando peraltro che la polizza di assicurazione auto non è una polizza semplice, perché le compagnie hanno diversi testi, hanno diverse garanzie e quindi anche la competizione sul prezzo non può limitarsi alla valutazione di questo, ma va inserita in una valutazione più ampia sul contenuto della copertura. Ben venga quindi per la gente l'obbligo di esibire altri 2 preventivi oltre a quello della propria mandante, anche se, e qui è una delle limitazioni della norma, noi sappiamo che la tariffa che viene pubblicizzata dalle compagnie sui propri siti è la tariffa indicativa. Sappiamo quindi, e sappiamo anche, che la rete agenziale ha poi la disponibilità, la discrezionalità di applicare degli sconti su queste tariffe. Per cui comparare una tariffa scontata dalla parte dell'agente con 2 tariffe non scontate di altre compagnie, di fatto rischia di vanificare un po' questo aspetto, renderlo più formale che sostanziale. Certo, tra l'altro, Presidente, poi magari ne discutiamo nella seconda parte della trasmissione, perché adesso devo già fare la prima pausa. Bisogna capire anche quali saranno le compagnie alternative che l'agente di assicurazione potrà presentare. Non lo so, la sua compagnia dovrà fare convenzioni con altre organizzazioni, con altre società, oppure così presenta dei preventivi a sua discrezione, insomma, come funzionerà anche nel concreto, no? La presentazione di questo ventaglio di opportunità di mercato. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Oggi cominciamo ad affrontare il pacchetto di liberalizzazioni del nuovo governo, cominciando con le polizze RC Auto. Cosa cambierà con tutti gli interventi che sono stati programmati, che coinvolgono l'attività fraudolenta che riguarda il settore, il sistema dei risarcimenti, la sicurezza e la trasparenza? Vi leggo intanto una mail di un'ascoltatrice di Ivrea che ci racconta che all'atto del pagamento della polizza è venuta a conoscenza che l'agenzia della sua compagnia di assicurazione non le aveva disdettato l'assicurazione, la compagnia l'aveva comunicato all'agenzia in tempo utile, ma questa si è dimenticata. Per di più, la responsabile ha detto che non è necessario mandare una raccomandata ai clienti per la disdetta. Il risultato è che la riammettono nella compagnia, ma con un premio che sale da 360 euro ad oltre 900. Daniela dice: io negli ultimi 5 anni ho fatto 2 micro tamponamenti, ma per le compagnie è come se avessi sfasciato 2 auto, perché non fanno distinzione dell'entità del danno. Ma caricare il 200% non vi sembra un po' troppo? Daniela, la ringrazio. Maurizio, ti chiedo un giudizio, se magari un'inefficienza di questo tipo di comunicazione, che porta però ad un danno economico enorme per Daniela, potrà essere superato con i provvedimenti in arrivo. No, allora la domanda intanto non è chiarissima. In ogni caso bisogna dire che ovviamente se uno ha la coscienza a posto sulle comunicazioni fatte che ha fatto lui, quindi se ha la prova di aver comunicato per tempo, ovviamente può venirne fuori, perché tutto quello che attiene ai problemi di comunicazione fra la compagnia e l'agente ovviamente non riguarda il consumatore, questo va detto. E comunque peraltro si può anche disdettare una polizza all'ultimo momento quando l'aumento supera l'inflazione programmata, il tasso di inflazione programmata. Detto questo, si parlava di micro tamponamenti. Allora torna utile per dire che c'è la possibilità della cosiddetta autoliquidazione, cioè quando il danno è molto molto basso, e di solito questo l'agente o il liquidatore lo fanno presente all'assicurato, è bene ritirare la denuncia e provvedere di persona a pagare la sistemazione del danno, o comunque rimborsare l'assicurazione, che poi straccerà la pratica. Insomma, questo è un modo per evitare di avere degli aggravi. Questo va assolutamente ricordato. Se non l'hanno fatto gli operatori nel caso della nostra signora, hanno commesso un errore. Quello sì, poco scusabile. Allora, comincerei a coinvolgere i nostri ascoltatori e farli interagire con, oltre Maurizio Caprino, che è il collega del Sole 24 Ore che avete appena sentito, anche con Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazione. Sentiamo Andrea della provincia di Salerno, che era rimasto particolarmente interessato all'aspetto della, come dire, dei preventivi che adesso si dovranno fare da presentare agli automobilisti, no? Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, sono dalla provincia di Palermo, non vorrei che il mio siciliano. Salerno, mi ha scritto le ragazze comunque. Senta, io sono del settore, sono un subagente di assicurazione, telefonavo per così chiarire che la normativa non è affatto completa né tantomeno chiara per i clienti. Il mio caso è particolare, o perlomeno mi sono adattato così, io ho 3 compagnie di assicurazione, quindi faccio i preventivi con le 3 compagnie mie di assicurazione. Però laddove uno volesse essere un po' più disonesto, potrebbe fare una piccola indagine sul mercato internet e via discutendo, e scegliere delle compagnie sono molto più care per tariffa rispetto alla propria, e quindi orientare in maniera un po' fraudolenta il cliente verso il proprio preventivo. Diciamo che la normativa in questo senso è rimasta a metà, ecco, perché era preferibile mettere tutti sotto l'ala, diciamo, del brokeraggio effettivo, per garantire un risparmio netto al cliente. Allora, mi scusi un attimo, Andrea, però non ho capito adesso il meccanismo che lei dice potrebbe essere possibile da escogitare. Lei rappresenta 3 compagnie, allora che cosa potrebbe fare per proporre al suo cliente poco fa ho fatto una polizza con una di queste compagnie e ho scelto, naturalmente, nel mio caso ho scelto la migliore, diciamo la più competitiva, anche quella che aveva le garanzie più utili. Ecco, infatti. Però La maggior parte dei colleghi ha una sola compagnia, è raro ancora trovare persone con più compagnia sebbene la liberalizzazione, anche perché ci sono i ricatti delle agenzie, delle compagnie, vabbè, sì, eccetera, c'è tutto. Eccetera. Se io avessi una sola compagnia dovrei cercare necessariamente, per poter attirare il cliente, due preventivi di compagnie che sono decisamente più care, e chi vive in questo settore sa bene che ci sono delle variazioni molto sensibili. Vabbè, questo a patto di avere a che fare però con una persona che veramente vive sulle nuvole, Andrea, perché magari anche il suo stesso cliente può a sua volta attivarsi per fare dei preventivi altrove e dice: ma guarda, insomma, mi stai facendo delle proposte al di fuori di ogni... Naturalmente, ma questo già succede, in parte succede, anche se per questo vincola noi professionalmente. Però è rimasta incompleta in questo, nel senso che dovevano essere negati i monomandati agli agenti, ecco, per poter permettere ancora uno spettro maggiore. Perfetto. Se non ci fosse stato più il monomandato, io avrei avuto tre agenti che avrebbero avuto almeno sei compagnie, avrei avuto uno spettro maggiore da proporre. Andrea, grazie per le sue sollecitazioni. Presidente Paparella, sul tema dell'abolizione del monomandato mi pare che stiamo discutendo da diversi anni con passi avanti molto lenti, però per chi fa come suggeriva Andrea, no? Dice: insomma, io propongo la mia polizza, poi faccio vedere al cliente magari che sul mercato per la medesima necessità, per i medesimi servizi, le tariffe sono molto più care, è chiaro che il cliente viene da me e accetta la mia, ma per una comparazione che non dico che è truffaldina, ma che non è sicuramente trasparente, esistono dei controlli nell'ambito appunto delle novità che stanno arrivando? In realtà l'allargamento al plurimandato già con la legge 40 del 2008 era stato inserito per la responsabilità civile auto, cioè consentivano agli agenti di intraprendere rapporti con più compagnie e non più con una sola. Questo provvedimento quindi va in quella scia, non altera la sostanza del 2008. Quanto lamentava il signore, è possibile, certo, se io faccio riferimento, come dicevo poc'anzi, alle tariffe pubblicate su internet dalle varie compagnie, sui siti delle compagnie, lì ho la tariffa piena, non ho la tariffa che con le personalizzazioni permesse alla rete di vendita, quindi è facile che io possa avere due preventivi di due compagnie che sono più alti del preventivo della mia compagnia, perché io posso poi personalizzare la partenza. Come si scongiura tutto questo? È difficile da scongiurare se non facendo appello alla professionalità degli intermediari. Noi come broker, non avendo legami con nessuna compagnia e avendo questi strumenti informatici molto avanzati, perché c'è Kitauto, è un comparatore estremamente professionale che non può essere usato da una persona come per esempio il comparatore dell'ISVAP, che è uno strumento importante e utile, ma che anche però perché lì ci sono tutte le società, perché questo va anche detto, ne sono nati tanti di comparatori, ma hanno comunque un'offerta in termini di società un po' più limitata. Il comparatore dell'ISVAP è quello istituzionale, ha dentro tutto. Sì, ha dentro tutto, ma anche lì c'ha solamente la RC Auto, non c'ha la RD, cioè non c'ha il furto incendio, che è un'altra componente della quasi totalità dei contratti, che fa anche quello il premio importante da calcolare, da verificare. E comunque, come dicevo, questo tipo di presupposti e di apertura del mercato presuppone che sia anche l'assicurato che si faccia parte attiva, perché non si deve fermare, ma io lo dico da sempre, non deve fermarsi al primo preventivo che gli fa la gente sotto casa, poiché ormai la spesa assicurativa è elevata. Credo che sia più che giustificato e più che doveroso, con la diligenza di qualunque buon padre di famiglia, chiedere più preventivi a più soggetti, così solamente avrà la certezza di comprare il prodotto che è a lui più idoneo e al costo migliore. Presidente, quanti broker radunate nella vostra associazione? Noi ne associamo 1070 su un totale di 1300, per cui evidentemente siamo assolutamente rappresentativi del settore. E siamo in tutta Italia, è sufficiente collegarsi al sito www.aiba.it e cercare nell'elenco dei nostri associati quello che è più vicino all'interessato. Qual è la differenza tra un broker e un agente di assicurazione? Quindi un broker, per esempio, quante compagnie può rappresentare? In estrema sintesi, il broker rappresenta il cliente, l'agente rappresenta la compagnia, anche l'agente plurimandatario invece di rappresentarne una ne rappresenta più di una. Ma il vincolo è assolutamente inverso, noi rappresentiamo il cliente e gli agenti rappresentano le compagnie. E quindi venire da noi significa cercare un esperto che fa i propri interessi, l'interesse del cliente. Ecco, era per, le ho fatto un po' raccontare anche in tre parole la vostra attività, perché quello che mi piacerebbe capire è, siccome stiamo pungolando da anni i nostri ascoltatori verso un po' più di mobilità, diciamo pure così, nel senso che soprattutto nel settore assicurativo abbiamo visto che c'è questa tendenza a rimanere fedeli al proprio agente per anni, anche perché poi quando capitano gli incidenti magari si ha questa voce amica alla quale ci si preferisce rivolgere, perché si ha la sensazione che le questioni si risolvano più velocemente, no? In termini più rassicuranti. Mi chiedo appunto se c'è stata un'inversione di tendenza negli ultimi tempi e se ci sono un po' più consumatori, utenti, sottoscrittori appunto di polizze assicurative che si rivolgono a persone che ne rappresentano un po' di più, professionisti che ne rappresentano di più piuttosto che uno solo. Presidente Paparelli. Sì. Tenga conto che in Europa mediamente il 25% degli assicurati cambia compagnia ogni anno per l'RC Auto, e in Inghilterra addirittura quasi il 50% degli assicurati cambia ogni anno. Da noi siamo intorno al 9%, 9-10%, quindi abbiamo da colmare un gap con il resto dell'Europa senza arrivare alle estremizzazioni dell'Inghilterra. E questo è perché si è capito che facendo così si ottengono delle condizioni più favorevoli. Lo strumento che può consentirti questo cambio è anche il broker, perché io un anno ti posso fare una polizza con questa compagnia, l'anno dopo un'altra compagnia è più favorevole e ti cambio compagnia, non avendo alcun interesse a mantenere una o un'altra compagnia. Quindi questa attività di turnover siamo noi stessi che la facciamo per conto dei nostri clienti. Volevo subito sentire testimonianza di Gianni della provincia di Imperia, che lavora in un'officina, quindi si occupa anche lei di riparazione. Gianni, di veicoli di disastrati da incidenti automobilistici, buongiorno, di incidenti, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, io mi occupo più che altro di veicoli commerciali, non autovetture, però la questione non cambia, perché comunque sono anni che le compagnie giustificano i loro aumenti con le truffe, non truffe, vari sotterfugi, però dovevo dire che quanto sia vero e quanto sia solo una giustificazione sarebbe anche simpatico da vedere. Ed inoltre diciamo che la maggior parte della colpa comunque è delle assicurazioni che permette che questo accada. In quanto comunque se al momento di un preventivo non c'è un controllo sui prezzi effettivi di listino, anche se sono listini ufficiali, se praticamente non si controlla se successivamente all'emissione della fattura viene messo anche una nota credito come sconto per non farla figurare prima. C'è da vedere che non c'è nessuno che controlla se quello che è stato cambiato sulla vettura andava effettivamente cambiato oppure. Non c'è assolutamente controllo su queste cose, quindi è normale che poi c'è sempre chi ne approfitta. Gianni, io la ringrazio per la sua testimonianza. Credo che proprio da questo punto di vista si cerchi di dare un giro di vite. Maurizio Caprino, leggo su un pezzo di Rossella Cadeo di settimana scorsa che adesso, proprio alla luce di quello che ci raccontava Gianni, ci sarà l'obbligo per le compagnie di inviare ogni anno all'ISVAP, l'autorità di controllo sul mercato appunto delle assicurazioni, una relazione dettagliata su sinistri ritenuti fraudolenti. Per cui tutti questi controlli che Gianni invocava dovranno essere fatti, e come, no? Ma diciamo che dovranno darne conto, anche se non è chiaro che cosa si rischierà qualora si dia o non se ne dia conto, oppure soprattutto se ne dia conto ma in maniera deludente, insomma, cioè nel senso che loro dovranno addirittura quantificare quanto hanno risparmiato con questi controlli, però uno può mettere anche in bilancio 2 centesimi di euro e voglio dire, no, più che la pubblica esecrazione non riceverà, insomma, ecco, non c'è un vero e proprio pungolo. Più importante invece è un'altra cosa che è stata un po' nascosta in questo pacchetto, non è stata molto evidente, ossia il fatto che finalmente le compagnie che abbiano un sospetto possono bloccare, un sospetto fondato, possono bloccare l'iter del risarcimento. Cioè un sospetto fondato che la carrozzeria abbia gonfiato il preventivo per avere di più, cioè un sospetto fondato di che cosa? Sì, un sospetto fondato che qualcuno qualcuno, non diciamo la carrozzeria, può essere anche l'interessato, certo, può essere un patrocinatore, perché qui purtroppo ci mangiano in tanti su queste cose. Comunque, qualora emerga un parametro di anomalia, sono parametri che sono stati già in parte fissati all'ISVAP in passato, allora in questo caso, documentando appunto l'esistenza di questa anomalia, si può bloccare i tempi, il conteggio dei termini per il risarcimento, perché il nostro amico carrozziere ha ragione quando dice che le compagnie non controllano, ma spesso le compagnie non controllano perché non li conviene, perché devono comunque, diciamo, prima, finora hanno sempre dovuto comunicare per tempo l'offerta al danneggiato, e ovviamente il danneggiato che sta frodando non aspetta altro che lo sforamento del termine per l'offerta, per poi denunciare tutto all'ISVAP e far oltretutto multare la compagnia per mancata offerta. Tenete conto che proprio nei reclami, questa cosa è proprio statistica, nel senso che la liquidazione dei danni è la causa numero uno dei reclami presentati all'ISVAP e delle sanzioni irrogate da questo istituto di vigilanza. Ci aggiungo quello che ci segnala Alberto all'indirizzo salvadanaio @radio24, il fenomeno dei certificati e contrassegni assicurativi falsi che aumenta in maniera vertiginosa. Credo che nelle regole antifrode, Maurizio, se me lo vuoi ricordare, si vuole intervenire anche su questo. Sì, assolutamente sì, ed è una modifica significativa, anche se ancora poco chiara, nel senso che voi ricorderete già a novembre se n'era parlato nell'ambito del maxi emendamento alla legge di stabilità, questa possibilità di fare controlli elettronici proprio per scovare chi circola senza assicurazione. In verità, per come era formulato questo maxi emendamento, si trattava insomma un po' di un'illusione, perché era né più né meno che quello che qualsiasi agente poteva fare, agente parlo delle forze dell'ordine, poteva fare. Adesso si fa un passo in più, ossia si stabilisce che gli apparecchi di controllo elettronico automatico, diciamo, delle infrazioni, quindi parliamo di autovelox, di telecamere per le zone a traffico limitato, di telecamere messe ai semafori, le rilevazioni possono di questi apparecchi potranno essere direttamente utilizzate per scovare appunto in modo automatico chi non è assicurato, però occorre specificare tante modalità di attuazione di questo dettato di legge, è una materia molto molto molto delicata. E quindi aspettiamo di vedere come l'attueranno. Eh sì, dobbiamo aspettare ancora un po', intanto abbiamo preparato un po' il terreno all'arrivo di questi cambiamenti. L'ultima riflessione la segna da Antonio da Livorno. Antonio, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, la ringrazio. Beh, abbiamo ancora 4 minuti. Io sono in classe 1 da 37 anni, mi tocco il naso, tocco ferro, non ho mai avuto per carità del quindi... cielo Antonio. No, quindi voglio dire, però nonostante questo la mia tariffa aumenta continuamente, perché le assicurazioni funzionano come una casa mutua e scaricano su tutti, sulla collettività, quello che pagano ai singoli furbetti. Detto questo, mio figlio un anno e mezzo fa ha avuto un piccolo tamponamentino, sentivo dire prima da una signora, un piccolo tamponamentino, un danno di un fanalino che là per là volevamo conciliare direttamente, ma già il signore ci aveva chiesto €500 per un fanalino. Insomma, morale della favola, dopo un anno e mezzo la compagnia ha mandato la lettera, allora o le aumenta la classe di merito oppure ci paga direttamente il danno. I famosi €500 erano diventati 2.400, perché il fanalino rosso era diventato una fiancata spappolata e sbriciolata, perché il ferito voleva €500. Allora, voglio dire, è chiaro che al momento in cui si deve fare una transazione, o la si fa subito o non la si fa più. I periti non possono ogni volta che si svegliano la mattina prendere €500 o €400 solo per andare a vedere una macchina. Lì Antonio, non c'era stata una procedura di constatazione amichevole con la modalità dell'indennizzo diretto nel caso del tamponamento di suo figlio? No, siete andati appunto, subito c'era lì. C'era stata chiesta. Ma i famosi €500 che già ci sembravano troppi sono diventati 2.500. Cioè, allora voglio dire, lì c'era il carrozziere che aveva assolutamente stragonfiato il danno, perché un fanalino non può diventare una fiancata completamente rotta, il perito non può prendere €400 solo di perizia, quindi voglio dire, non funziona più il discorso. Il problema è che prima ho sentito dire dall'esperto tutti, non è solo il carrozziere, è un concorso fra carrozzieri, periti, parte lesa, tra virgolette, cioè tutti fanno diventare un danno che è una stupidaggine, lo fanno diventare di migliaia di euro. Antonio, la ringrazio, faccio fare la risposta conclusiva al presidente dell'associazione dei broker di assicurazione Francesco Paparella. Allora, un meccanismo che deve necessariamente essere smontato, perché quello che ci ha raccontato Antonio, del quale non abbiamo nessun motivo di dubitare, mi sembra decisamente vergognoso. Non so se ha trovato una vittima di questo tamponamento particolarmente incaponita e con la quale non si poteva discutere, però effettivamente ci riusciranno, insomma, queste misure a rompere questi circoli? Ma guardi, la storia di Antonio purtroppo è una storia estremamente ricorrente. Credo che uno strumento che possa essere utile a limitare questi fenomeni sia proprio questa scatola nera. Perché la scatola nera, nel monitorare anche la velocità dell'urto, la modalità dell'urto, fa vedere immediatamente che determinate conseguenze che vengono poi lamentate successivamente non possono essersi verificate. Faccio riferimento per esempio al colpo di frusta. Colpo di frusta non si può verificare al di sotto di certe velocità. Di conseguenza, se la scatola nera ci dice che l'impatto è avvenuto a 3 km all'ora, parliamo per esempio di un impatto a un semaforo in città, sappiamo perfettamente che il colpo di frusta non può verificarsi. Benissimo. A questo punto, sì. In questo modo si potrà limitare questo malcostume che purtroppo è tipicamente italiano. Esatto, che poi giustamente ha detto l'ascoltatore: io non ho mai avuto incidenti, però pago per tutti. Grazie a Francesco Paparella e a Maurizio Caprino. Mi piacerebbe fare una trasmissione solo sulla scatola nera, che non è quella degli aerei ma quella dell'auto, e magari ci ritorneremo, perché noi intanto grazie a tutti, noi ritorniamo domani. Buona giornata.